cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se lei è una donna che non ha più voglia di fare guerra, se lei ha patito troppo, se lei ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se lei è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni languida carezza fatta per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Se lì cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente, l'aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si poteva mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. La follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Forse sei proprio questo il senso del tuo vagare. Se davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e incancellabile questo viaggio. Come se fosse l'ultimo. Se mi cammina per la strada leggera, ormai è sera. Scende le luci dei lampioni, tutta la gente con la casa davanti alle televisioni, e un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato un po' tutto sbagliato. Oh!